ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Il mese che si chiude oggi è stato il mese delle piazze e delle marce, delle proteste e degli scontri. Le piazze statunitensi, sempre più divise, polarizzate, violente, che fanno da sfondo a una corsa presidenziale decisamente avvelenata. Quelle in Bielorussia che promettono di far vacillare la quasi eterna leadership di Alexander Lukashenko, l'ultimo dittatore europeo. Quelle a Berlino, dove sono circa 300 le persone arrestate dalla polizia tedesca, intervenuta per disperdere la marcia negazionista contro il coronavirus, cui hanno partecipato oltre 30.000 persone. Quella marcia ha visto anche infiltrazioni dell'estrema destra e una tentata irruzione nella sede del Parlamento federale. Piazze e proteste anche in Libano, un paese che, definire fallito, rischia di non restituire la drammaticità della situazione in cui versa oramai da tempo. Piazze e marce, dunque, da un capo all'altro del mondo. E siccome nessun luogo è lontano, da oggi siamo pronti per raccontarle. In questa nuova stagione io e la mia squadra ripartiamo esattamente da dove ci eravamo fermati un mese fa, e cioè dalla complessità e dalla fatica. La realtà internazionale è complessa e comprenderla costa fatica. Non lo si fa a suon di slogan e divisioni manichee. Si consumano scarponi, si va a caccia di ospiti, di punti di vista. L'anno scorso ci avete premiati ascoltandoci numerosi. Ecco, quest'anno vi chiedo ancora una volta di accompagnarci in questo viaggio. In cambio vi promettiamo un anno di indicibili fatiche. Benvenuti a una nuova stagione. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Personally, I don't believe that there's a pandemic. I do think the disease exists, but not a pandemic. E ben ritrovati, buona giornata gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. La nuova stagione di Nessun Luogo Lontano, anche quest'anno pronti a consumare, a volte metaforicamente, gli scarponi, a mettere lo zoom, a mettere il grandangolo per raccontarvi cosa accade. In questa puntata di quest'oggi vi invito peraltro a commentare. 349-238-6666, Facebook, c'è la diretta anche video, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, i temi che tratteremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, che sarà un vero e proprio viaggio che vi porterà prima in Germania, in particolare a Berlino, e poi negli Stati Uniti, per raccontare due cose soprattutto. Da un lato la grande politica statunitense e dall'altro le piazze americane. È quasi un gioco del contrappasso, un gioco di specchi in cui la politica sembra esacerbare alcuni sentimenti e allo stesso tempo la piazza alimenta una certa politica. 349-238-6666, ma naturalmente, come in ogni puntata, la prima cosa da fare è andare a sfogliare i nostri dossier internazionali. Intanto accolgo con piacere i tanti messaggi che sono e stanno arrivando al 349-238-6666, tanti complimenti, ma come sapete non è nostro costume dare voce a questo genere di messaggi. Quando vi saranno critiche, commenti, domande, sicuramente ve ne darò conto. Dicevamo, ricco termometro internazionale per il weekend che è appena trascorso. Innanzitutto citavamo nell'editoriale iniziale quella che è la crisi in cui versa l'importante paese medio orientale, il Libano. L'attuale ambasciatore libanese in Germania, Mustafa Adib, è stato incaricato di formare il nuovo governo a Beirut. Lo ha reso noto la presidenza libanese, che tanto si è battuta per ridare in qualche modo sostegno al fragilissimo Stato. Vedremo se Mustafa Adib sarà in grado di formare un nuovo governo, ma soprattutto di in qualche modo assecondare le istanze della piazza di Beirut e non solo, che ormai da tanto tempo chiedono a gran voce una riforma strutturale di quello che abbiamo definito a tutti gli effetti, lo possiamo dire senza tema di smentita, uno Stato fallito. Israele, Emirati Arabi Uniti. Pochi secondi fa gettavo l'occhio alla CNN che stava facendo vedere il tragitto di questo storico volo che ha collegato sostanzialmente Tel Aviv ad Abu Dhabi. Una delegazione mista di esponenti di spicco sia dell'amministrazione statunitense che quella israeliana è giunta infatti negli Emirati Arabi Uniti a bordo del primo volo commerciale tra le due nazioni del Medio Oriente. Il volo era della compagnia bandiera israeliana El Al, LY971 per essere precisi. ha attraversato lo spazio aereo saudita dopo il beneplacito e lascia passare proprio delle autorità di Riyadh. Il velivolo presentava la parola pace scritta in inglese, in ebraico e in arabo sulla fisoliera. Perché? Perché sostanzialmente questo volo simbolico va a istituzionalizzare e ulteriormente corroborare quei tentativi di normalizzazione tra lo Stato ebraico e almeno una parte del mondo arabo. L'annuncio risale al 13 agosto, questo accordo di normalizzazione dovrebbe essere il primo tassello, erano 20 anni che si aspettava, o almeno una parte della politica lo aspettava, che dovrebbe appunto normalizzare i rapporti. Come immaginate la controparte araba che più soffre di questo, di questa normalizzazione, quella palestinese? Peraltro in queste ore Gaza sta vivendo un nuovo lockdown particolarmente pesante, perché le autorità israeliane non consentirebbero adeguato accesso a farmaci e passaggio proprio di mezzi e persone tra la striscia di Gaza e il territorio israeliano. Dicevo, le autorità palestinesi hanno ovviamente bollato questo accordo come assolutamente benefico. Perché? Perché va a demolire quello che era un fronte panarabo che era pro-palestinese e che a questo punto si trova, come dire, un alleato in meno. Il tutto, lo ripetiamo, forse l'hashtag da usare in queste settimane, in questi mesi, sarà appunto normalizzazione. E poi, a proposito di crisi continua, quella nel nostro Mediterraneo, perché il braccio di ferro tra Turchia e Grecia sta raggiungendo livelli allarmanti. La notizia, in realtà l'inizio di questa notizia, risale al 29 agosto. La Turchia, Ankara, ha lanciato nuove esercitazioni nel Mediterraneo orientale. La durata di queste esercitazioni militari dovrebbe essere di 2 settimane. E a proposito di normalizzazione, qua dobbiamo usare il termine esattamente contrario, perché sicuramente quella disputa sui confini marittimi e soprattutto sui diritti di estrazione del gas sta accendendo le rivalità fra Atene e Ankara. La Turchia, fra le altre cose, ha annunciato che effettuerà esercitazioni di tiro da adesso fino all'11 settembre davanti alle coste meridionali, siamo a nord dell'isola di Cipro. Il tutto vede un'accelerazione delle tensioni risalenti al 10 agosto scorso, lo ricorderete, il dispiegamento della nave da ricerca turca Oruç Reis nelle acque che fanno parte della zona economica esclusiva di Atene, ma che è rivendicata anche da Ankara. Ed è di ieri la notizia riportata dal Ministero della Difesa turco racconterebbe che aerei da caccia turchi avrebbero intercettato 6 velivoli greci che si dirigevano verso la nave, costringendoli a fare dietrofront. E poi il confine India-Cina, che nella scorsa stagione abbiamo raccontato con dovizia di particolari, ricorderete anche lo scorso maggio, quando la Cina ha iniziato a ammassare truppe, pezzi e artiglierie nella regione, e a un certo punto quel cruento scontro ad altissima quota, finito con uno scontro fisico tra militari cinesi e militari indiani, rocce, mazze chiodate nella valle del Galwan, 20 soldati indiani morti, il bilancio cinese ovviamente non è dato saperlo, ma questo per la estrema opacità anche delle comunicazioni da parte di Pechino. Dicevo, tornano a salire anche lì le tensioni tra Delhi e Pechino, perché l'India sta accusando la Cina di movimenti militari provocatori lungo questo confine conteso. Il ministro della difesa indiano ha dichiarato che l'esercito cinese ha l'obiettivo di modificare lo status quo della frontiera nei pressi della riva meridionale del lago Pangong, siamo nella regione del Ladakh. Le due parti, dopo quell'episodio cruento con le 20 vittime indiane, si erano impegnate pubblicamente a ridurre le tensioni, ma come spesso accade Pechino sta invece giocando sotto traccia per consolidare le proprie posizioni. Staremo a vedere, non è retorica, cosa accadrà nelle prossime settimane. E infine, l'ultimo dossier internazionale che vi sottopongo riguarda la Bielorussia. Secondo i media locali, sarebbero state oltre 100.000 le persone che hanno aderito alla manifestazione contro Lukashenko ieri a Minsk, dando vita alle proteste più massicce nel paese dall'indipendenza dell'Unione Sovietica. Alcuni dei dimostranti si sono radunati nei pressi della residenza ufficiale del presidente, nonostante la massiccia presenza delle forze dell'ordine che hanno circondato l'edificio. Oggi, dopo l'incontro col presidente della Corte Suprema Valentin Sukalo, il presidente bielorusso ha dichiarato che la bozza aggiornata della nuova Costituzione sarà presto sottoposta al dibattito pubblico, aggiungendo che la riforma della Costituzione è il primo passo verso l'organizzazione di nuove elezioni parlamentari e presidenziali, e staremo a vedere se vi sarà un cambio di passo, ma soprattutto un cambio di regime per quello che da molti è considerato e bollato come l'ultimo dittatore europeo. Questi i nostri dossier internazionali, chiudiamo questa prima pagina e adesso con la copertina curata da Matteo Ramelli e Roberta Frisani, che è in regia, andiamo in Germania. Rechtsextremistische Pöbeleien und Gewalt bei der Demonstration am vergangenen Samstag in Berlin haben zu Recht viele Menschen erschreckt und empört. Wer auf den Straßen den Schulterschluss mit Rechtsextremisten sucht, aber auch wer nur gleichgültig neben Neonazis, Fremdenfeinden und Antisemiten herläuft. Un bizzarro mix di persone, così ha definito e ha bollato la piazza che vi raccontiamo in questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano, il New York Times. Che cosa è accaduto? Sabato circa 38.000 persone, e così rispondo dando cifre precise che arrivano dai media tedeschi, rispondo a un ascoltatore che con un lessico non particolarmente raffinato mi dà del pagliaccio, perché a Minsk erano 30.000 e a Berlino 100.000 e mi accusa di fare solo disinformazione. Dicevo, 38.000 persone sabato hanno marciato per le strade di Berlino sfilando davanti a luoghi simbolo della città, la Porta di Brandeburgo, la Colonna della Vittoria, chiedendo che cosa? La fine delle restrizioni imposte dalle misure anti-Covid-19. E come vi dicevo, il New York Times ha analizzato quella che è una piazza particolarmente eterogenea, perché, come osservava il reporter del prestigioso quotidiano statunitense, vi erano intere famiglie con bambini in assetto da picnic, anziani e che camminavano a fianco a gruppi neonazisti, mentre bandiere della pace sventolavano assieme alla Reichsflagg, che è il drappo nero, bianco e rosso vessillo dell'impero tedesco che oggi identifica alcuni dei gruppi di estrema destra come il movimento Reichsburger, il tutto incorniciato da musica e canti di sagre di paese. Alcuni manifestanti brandivano cartelli con la scritta «Togliti le maschere da schiavo», altri invece con le parole «Umanità», «Amore» e «Libertà», mentre altri ancora intonavano slogan dall'importante significato storico «Wir sind das Volk», «Noi siamo il popolo», il tutto mescolato a un invito rivolto a Donald Trump e a Vladimir Putin per liberare la Germania. E mentre questa colorita e composita e, come diceva New York Times, bizzarra manifestazione di piazza sfilava per Berlino, un gruppo, una frangia di estrema destra, peraltro ricordiamo che la maggior parte dei manifestanti ovviamente non indossava mascherine e non rispettava il distanziamento sociale, dicevo, un gruppo di manifestanti con la Reichsflagg ha sfondato una bandiera della polizia e ha tentato di entrare nel Reichstag, il Parlamento federale tedesco, il che evidentemente ha fatto sobbalzare sulla sedia la classe politica tedesca. Certamente quello che è accaduto due giorni fa a Berlino è un pezzettino della storia contemporanea tedesca. Ma che cosa sta accadendo? Per fare chiarezza andiamo immediatamente in diretta a Berlino, lo facciamo con la voce di Daniel Mosseri, un giornalista freelance, vive appunto a Berlino, lo potete leggere fra gli altri sul Foglio, sul giornale Panorama. Daniel, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, ci aiuti a capire meglio questa composita piazza che il New York Times normalmente, come dire, molto anglosassone evidentemente, no? Anche nelle sue etichettature, nelle sue descrizioni, ha definito bizzarra. Cosa c'era di bizzarro nei 38.000 manifestanti di ieri? Anzi, ti chiedo conferma sul numero, visto che a questo punto mi danno del negazionista e vengo accusato di stravolgere i numeri. I numeri circolati sono quelli, dai 30.000 ai 38.000 partecipanti, comunque più del doppio di quanto si aspettava la polizia tedesca, per cui un numero importante, considerato soprattutto che è stata una manifestazione organizzata all'ultimo minuto, che in verità era stata organizzata tempo fa, poi il Senato, che sarebbe il governo berlinese, l'ha vietata. C'è stato un ricorso al Tribunale Amministrativo di Berlino che in ultima battuta l'ha permessa e alla fine sono arrivati in oltre 30.000. La voce e il commento di Daniel Mosseri per cercare di comprendere, analizzare meglio quella che ho definito, attenzione, è un'etichetta giornalistica evidentemente, una marcia negazionista. Perché? Perché evidentemente vi erano delle anime che erano molto insofferenti rispetto alle misure restrittive imposte a causa del coronavirus e stavano sfogando la loro rabbia e urlando le loro istanze, a volte però non rispettando quelle che erano i suggerimenti sanitari che ci vengono imposti, che impedirebbero il propagarsi del virus. Date le forti differenze di queste anime, Daniel Mosseri, ti chiedo se la vedi come una manifestazione estemporanea e che quindi, come dire, ha trovato il suo inizio e la sua fine proprio durante il weekend, oppure vi potrebbe essere in qualche modo una compattezza politica che potrebbe andare a far ridiscutere la politica tedesca anche le misure anti-Covid. Come la vedi? È difficile per me immaginare che sia possibile compattare persone così differenti, perché c'erano, come voi avete anche un po' anticipato, gli Hare Krishna accanto ai cristiani fondamentalisti e persone che altre persone che in altre circostanze non sarebbero mai gli uni accanto agli altri, tipo i Reichsburger, quelli che vorrebbero ritorno dell'imperatore, appunto una maschera, fascistoni tedeschi, accanto a rappresentanti della Widerstand, della resistenza tedesca, per cui è semplicemente impossibile immaginare che queste persone possano poi andare a unirsi, a convogliare i loro voti su un'unica piattaforma politica. Era una manifestazione contro, è una manifestazione contro, e probabilmente si scioglierà quando finirà l'emergenza Covid, perché erano tutti solo contro il Covid. Da sottolineare però che c'era anche qualche famiglia che ha partecipato alle manifestazioni solo perché l'idea che il governo berlinese avesse provato a vietarla li aveva molto infastiditi, quindi sono andati con i bambini, tradizione molto tedesca, andare in piazza, andare in strada per dimostrare che non si dice, che non si può impedire al popolo di scendere in piazza. Ora, cosa abbiano in comune tutte queste persone? Io francamente non lo so. Daniel Mosseri, in diretta da Berlino, giornalista freelance, scrive per Il Foglio, il giornale Panorama fra gli altri, ed è nostro gradito ospite per cercare di capire questo strano paradosso. Mi verrebbe da dire quasi tutto tedesco, perché nel weekend vi sono state manifestazioni analoghe, pur in misura molto minore, anche a Londra e a Parigi, molto minore, attenzione. Ecco, perché quest'unicum tedesco, a tuo parere? Come se, come dire, l'irritazione, l'allergia alle misure per contenere il coronavirus trovassero nella Germania, tra tutti i paesi europei, forse il terreno più fertile. Come mai questa specificità, a tuo parere? Ma un po' perché, come abbiamo detto, c'è questa tradizione dei tedeschi di scendere in piazza, di andare a manifestare, e poi c'è una forte voglia di protesta, c'è malcontento. Bene o male, la Germania è governata da 15 anni dalla cancelliera Merkel, per cui chi per diversi motivi si oppone a lei scende in piazza con la scusa del coronavirus, per cui c'erano i Novax, c'erano i nazisti, c'erano i negazionisti, e anche il momento e l'era dei complotti, per cui c'era Attila Hildmann, che è un famosissimo negazionista, famoso qua in Germania, che è partito come cuoco vegano e è diventato un altoparlante del neonazismo e dell'antisemitismo, è stato portato via a braccio dalla polizia, per cui c'è molta voglia. Sono molto insofferenti i tedeschi alle restrizioni, forse anche per la tradizione, per la storia triste, recente e meno recente di questo paese, che ha subito prima la dittatura nazista e poi per metà è rimasto sotto il socialismo reale. Per cui l'idea che il governo ti venga a dire non fare questo, resta a casa, infastidisce tendenzialmente il tedesco, che reagisce protestando e appunto scende in piazza, sebbene in maniera pacifica, va sottolineato, la manifestazione era largamente pacifica, salvo quelli che hanno attaccato il Reichstag, l'edificio dove c'è il Parlamento, e anche l'ambasciata russa, va ricordato. Non hanno attaccato l'ambasciata russa, ma hanno tirato un molotov ai poliziotti tedeschi invocando l'aiuto di Putin. E questo è sicuramente un segnale di caos particolarmente preoccupante. In parte hai accennato, e proviamo a mettere il grand'angolo con te, Daniel Mosseri, lo ricordo, giornalista freelance in diretta da Berlino per cercare di comprendere come la politica tedesca potrebbe reagire di fronte a questi due segnali particolarmente allarmanti. Se accogliamo la tua lettura che sullo sfondo di questa piazza c'è una certa allergia al potere costituito in questo momento e impersonificato dalla cancelliera Angela Merkel, dall'altro lato quella tentata eruzione del Reichstag è sicuramente un segnale preoccupante di una politica, per un eufemismo, questa non è politica, questa è piazza a muso duro, con il rischio anche di violenze piuttosto gravi. Ecco, come la politica tedesca può reagire e deve reagire rispetto a queste istanze? Beh, la politica tedesca ha reagito molto duramente. L'attacco al Reichstag riporta appunto memorie molto tristi di questo paese, da lì che è cominciato il nazismo, per cui sia la cancelliera Merkel sia il presidente Steinmeier hanno criticato, hanno parlato di immagini inquietanti e hanno definito appunto questo tentativo di sfondamento al Bundestag un attacco alla democrazia che è inaccettabile. E personalmente il presidente ha invitato a Bellevue, che sarebbe il Quirinale tedesco, i poliziotti che per primi hanno subito l'attacco dei manifestanti, proprio a dimostrare come il paese si stringa accanto alla polizia. Va anche detto che secondo i sondaggi il 60% dei tedeschi ritiene che il governo stia gestendo la crisi del coronavirus molto bene, e per il 28% le misure non sarebbero neanche troppo dure. Evidentemente persone che leggono i giornali e vedono ad esempio come in Italia ci siano anche restrizioni più severe, per cui stiamo parlando comunque di una minoranza minuscola che ha fatto uso della violenza. Per cui insomma la politica reagisce con molta durezza, anche perché sa di avere il sostegno della larghissima parte dei tedeschi. E dalla propria parte i numeri, e vedremo nelle prossime settimane come evolverà e soprattutto se vi sarà un seguito a quella che, ripeto, il New York Times ha bollato come una bizzarra manifestazione. Ci ha aiutato a tratteggiarla Daniel Mosseri, giornalista freelance da Berlino, lo potete leggere fra gli altri sul Foglio, sul Giornale, su Panorama. Io ringrazio Daniel, alla prossima, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Alla... Allora, un po' di messaggi al 349-238-6666. Non conosco quello che le ha dato del buffone, ma mi trovo concorde. Una violenza potrebbe scoppiare in violenza negazionista. Nessuno è negazionista. C'è chi dice che il codice, immagino il Covid, venga usato per scopi altri. Nessuno dice che il Covid non è esistito. Così un ascoltatore. In una manifestazione simile accaduta a Firenze prima dell'agosto, mi pare fosse luglio, dal palco parlava un omofobo razzista dichiarato complice insieme ai centri sociali autogestiti. Mi fa molto paura tutto ciò. Questo messaggio poco chiaro, ma sostanzialmente tenta un parallelo con alcune delle istanze che in Italia si sono viste, si vedono a tratti. Su questo non c'è dubbio. Qualcun altro allarmato si chiede dopo queste manifestazioni quanti casi di positività vi saranno. Qualcun altro bolla quella manifestazione come stupida. Non ho parole per descrivere la stupidità dei manifestanti di Berlino. E qualcun altro, uno degli ascoltatori più affezionati e più attenti, si chiede quanto questa crisi potrà danneggiare anche l'Unione Europea più in generale. Tempo questo evidentemente di mettere il grandangolo, lo faremo naturalmente nei prossimi giorni, nelle prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Tra pochissimo chiuderemo questa prima pagina, prima parte del viaggio, prima piazza piuttosto bizzarra, lo ripeto, ma per la grande eterogeneità di chi vi partecipava, un numero piuttosto cospicuo, almeno 38.000 secondo le principali fonti giornalistiche, con quella deriva che ha fatto molto preoccupare. Chi ha letto i libri di storia sa di che cosa parliamo, quella tentata eruzione al Reichstag che segnò parecchi decenni fa l'inizio di una storia, di una pagina davvero funesta della storia europea. Vi do conto però invece di una notazione che ha recuperato il nostro Andrea Macchioni, che arriva dall'Università Tecnica di Berlino. Un sociologo, Simon Toine, ha cercato di descrivere questa piazza e ha detto: coloro che sono stati colpiti economicamente dalle misure del lockdown in Germania, ad esempio le persone che hanno perso il lavoro nel settore dei servizi, non si accalcano nelle proteste. La mia impressione è che si tratti invece, quelli che hanno protestato, principalmente di persone della classe media con un'istruzione superiore appunto alla media. Secondo il sociologo non si può parlare di un movimento anti-lockdown. Credo che siano le proteste, sia le proteste che i loro leader spariranno presto. Quello che manca loro per formare un movimento politico a lungo termine più organizzato è proprio l'obiettivo comune. Prima pagina, realizzata naturalmente, non ho dato conto della squadra di quest'anno nel suo luogo lontano, Antonio Talia, quest'oggi c'è Matteo Ramelli, Andrea Macchioni, naturalmente Roberta Fisani è in regia. Chiudiamo questa prima pagina tedesca, tra pochissimo, ve lo anticipo, andremo negli Stati Uniti e in particolare a Portland. Adesso l'informazione finanziaria. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Inizia una nuova stagione di Nessun Luogo è Lontano dopo un agosto caldo, caldissimo, e un weekend altrettanto caldo. Questa prima puntata di Nessun Luogo è Lontano ci ha visti tentare di tracciare una linea rossa che legava alcune delle piazze che si sono scaldate negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, con obiettivi e intenti diversi, ma non c'è dubbio che in questa calda estate le piazze, i movimenti popolari stiano facendo sentire la propria voce. Lo fanno, dicevo, con obiettivi diversi e molto spesso con modalità diverse. A volte anticipano la politica, chiedono istanze, scaldano la politica. Altre volte avviene invece un processo inverso ed è la politica, secondo molti osservatori, a gettare benzina sul fuoco. È il caso della politica statunitense. Ci riprepariamo, riscaldiamo i muscoli perché la lunga galoppata fino ai primi di novembre prevede sicuramente tanti colpi di scena. Quello che però sta accadendo sulle piazze americane non è certamente bello da raccontare e sintetizzato in quest'altra copertina. This shooting happened on a night that included violent clashes between racial justice activists and a group of Trump supporters. President Trump, you bring no peace. You bring no respect to our democracy. We're all living in America. I have not seen anything like this in my life. An NBA team boycotting as a way of civil disobedience, as a way of protest, the Milwaukee Bucks saying that they're not going to play. I don't know much about the NBA protest. I know their ratings have been very bad because I think people are a little tired of the NBA, frankly. But I don't know too much about the protest. But I know their ratings have been very bad, and that's unfortunate. They've become like a political organization, and that's not a good thing. We're all living in America. America is wunderbar. E apriamo questa prima pagina con un tweet del presidente statunitense Donald Trump. È di pochi minuti fa. A Portland c'è il caos ed è così da molti anni, scrive il presidente. Se questo zimbello di sindaco non farà pulizia, andremo lì e lo faremo noi per loro. Così appunto Donald Trump in suo cinguettio. Il presidente statunitense ha confermato anche la sua visita a Kenosha, la città del Wisconsin, in cui è stato ferito Jacob Blake per incontrare le forze dell'ordine. Quello che è accaduto sabato scorso intanto a Portland è sicuramente un altro tassello macchiato di sangue nella storia contemporanea americana. Quello che è accaduto è che si sono scontrati i sostenitori di Donald Trump e avversari sullo sfondo di una campagna presidenziale che è certamente sempre più avvelenata. Però l'inizio di questa pagina io lo affiderei al Washington Post indirettamente, perché in un bellissimo servizio ha intervistato Tom Warrick, che è l'ex dirigente della Homeland Security, è in pensione dall'anno scorso, ma come dire, ha notizie del modus operandi dell'intelligence, degli obiettivi dell'intelligence statunitense e anche di come si muove una certa parte della società americana, sicuramente fresche. Scrive in questa intervista al Washington Post Tom Warrick: l'incontro di agitatori politici su posizioni estremamente polarizzate nelle strade di città dove le forze di polizia sono già molto tese e in alcuni casi, notate bene, non adeguatamente addestrate per gestire la situazione, è una ricetta per potenziali ulteriori violenze. In questa fase, continua Tom Warrick, lo ricordo, ex dirigente della Homeland Security. In questa fase è fondamentale per i leader del governo di ogni livello calmare gli animi di tutti e mantenere pacifici i raduni politici. La politica ufficiale non sta facendo moltissimo, evidentemente. Invece avete sentito il tweet di Trump, ma anche Joe Biden, avversario democratico alle presidenziali, ci è andato giù duro, perché dopo la sparatoria di Portland ha accusato Donald Trump di alimentare le fiamme dell'odio e della divisione nella società americana. Peraltro Biden ha detto anche una cosa su Donald Trump e ha usato un aggettivo in particolare, ve lo faccio sentire. Trump è divisivo. Cosa vogliamo essere negli Stati Uniti? Sentite. Donald Trump has turned this country into a battlefield riven by old resentments and fresh fears. He thinks division helps him. His narcissism has become more important than the nation's well-being that he leads. I ask every American, look at where we are now. Questo Joe Biden recentemente su Donald Trump continua il braccio di ferro, lo proviamo a descrivere un po' meglio, lo facciamo con Riccardo Barlam, Sole 24 Ore da Washington, ma credo pronto a tornare a New York. Riccardo, buongiorno, ben ritrovato. Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono a Washington dove ho assistito nei giorni scorsi sia al discorso di Trump dalla Casa Bianca blindata per accettare la nomination repubblicana e poi il giorno dopo la manifestazione per i civili a 57 anni, la grande marcia con 50.000 persone per ricordare il discorso di Martin Luther King, I have a Dream nel 1963, e quindi ho assistito ai due lati di questa tensione che c'è e credo andrà ancora avanti per molti, per le prossime 10 settimane. Su questo speriamo naturalmente di sbagliarci. Riccardo, l'ultimo detonatore innescato è stato sabato scorso, un uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco a Portland, nell'Oregon. La vittima, Aaron J. Danielson, aderiva al movimento di estrema destra Patriot Prayer e sarebbe stato ucciso da esponenti, forse di Black Lives Matter, comunque della piazza antagonista, mettiamola così. C'è un'indagine in corso, evidentemente. E da più parti si dice, ecco, Black Lives Matter, però quando vengono uccisi i bianchi non se ne parla mai, anche qualche ascoltatore lancia messaggi di questo tenore. Che cosa è cambiato, Riccardo, se sta cambiando qualcosa nella tensione politica fra i due contendenti? Perché la piazza è sempre più calda, drammaticamente calda. Cosa cambia adesso per la politica? Allora, per la politica, Trump sta cercando di fare quello che ha fatto nel 2016, quindi le cose che dice Biden su cerca di dividere, in realtà è proprio così, perché lui nel 2016, se vi ricordate bene, Steve Bannon, il suo stratega, aveva detto, che tra l'altro è stato arrestato qualche giorno fa per una questione di fondi legati a un fundraising dei suoi sostenitori sul muro, con il Messico, insomma, sì. Si è tirato dentro $1 milione. Questo Bannon. Bannon diceva che a Trump diceva: tu devi fare come gli antichi romani, la massima divide et impera. E lui ha costruito il successo su questo, e quello che sta facendo in queste settimane, in cui è in ritardo nei sondaggi, è esattamente la stessa cosa. Aspettatevi il sangue. Questa è la storia. Il ragazzino di 17 anni che qualche giorno fa era con una milizia a difendere il distributore di benzina dai manifestanti radical left, i socialisti, questi terribili terroristi che secondo tanti americani rischiano di occuparti le case o di rapinarti, che quindi in base a questo secondo emendamento loro si riarmano. Questo ragazzino ha sparato contro due ragazzi bianchi che protestavano, si è spaventato, ma aveva un fucile a 17 anni, quindi sono... queste tragedie fanno vedere una società che non è mai stata così polarizzata come adesso. Mi hanno raccontato due amici che sono stati in fine settimana in un posto sulla spiaggia dove c'era una macchina di Trumpster che aveva nella spiaggia avevano messo delle bandiere pro Trump, con le bandiere confederate, proprio un clima da guerra civile, anche se non ci si arriverà, io voglio sperare, ma c'è una divisione così profonda tra gli americani, tra l'America bianca e questi stati della società, quindi da un lato c'è, come dire, la la prospettiva di queste micce che si stanno accendendo. Ma dall'altro anche Trump non fa niente per fare il leader pacificatore, perché domani andrà a Kenosha, sì, nonostante questa città dove hanno sparato a questo ragazzo 7 colpi sulla schiena, e ricordiamo la polizia con questo gli hanno sparato 7 colpi, non è bene chiaro cosa è successo prima, ma insomma con una persona che è in un ospedale appena operato con 7 colpi di pistola con la spina dorsale lesionata, e i poliziotti, per rimarcare che c'è qualcosa che non va a livello legale, lo hanno ammanettato nel letto. Quindi è una cosa da una crudeltà, ma anche nei tempi nazisti, direi. Trump domani va lì, ma non va a visitare questo ragazzo, ovviamente. Andrà a sostenere le forze di polizia che hanno sparato 7 colpi alla schiena a una persona disarmata, ecco. Sì. Quindi la cosa ovviamente creerà ancora più tensioni e non fa che alimentare questo clima di odio, e spera Trump di aumentare i consensi in vista del voto. Sì. Io non so cosa si inventerà da qui al 3 novembre, ma aspettatevi che uscirà un vaccino verso il 20 ottobre, e temo aspettatevi anche qualche morto da parte magari di un afroamericano che ammazza qualche bianco. Insomma, il clima è pesante, e queste cose fanno tornare l'America indietro di decenni, purtroppo. Sì. E questa è, Riccardo, è la lettura che molti analisti propongono e si associano a quello che ci stai raccontando sull'orlo di una guerra civile, parole forse un po' forti, però sicuramente che riecheggiano quello che accadeva fino agli anni 50 negli Stati Uniti. Ho un'ultima domanda per te, però ti faccio una proposta. Andiamo a sentire la viabilità e poi ti chiederò di un altro scontro che è tutto statunitense, tutto in seno all'amministrazione, che è sostanzialmente, se dovessimo ridurlo a uno slogan molto semplicistico, governatori locali contro potere centrale. State con noi. Nessun luogo è lontano. You're attacking democratic mayors and the very institutions of democracy that have served this nation well since its founding. Do you seriously wonder, Mr. President, why this is the first time in decades that America has seen this level of violence? It's you who have created the hate and the division. Ted Wheeler, il sindaco di Portland: quest'odio è colpa tua, presidente Donald Trump, così risponde alle accuse e a quella frizione sempre più consolidata. Ed è l'ultima domanda per Riccardo Barlam, Sole 24 Ore, tra Washington e New York in queste ore. Intanto, Riccardo, lo sai certamente, ma c'è una breaking. Biden ha appena risposto: Donald Trump ha fomentato la violenza nelle città americane e lo fa perché è debole. Così Biden in Pennsylvania, dove sta ripartendo con la sua campagna elettorale. Però la domanda era questa: trovi quantomeno strano il fatto che vi sia questo braccio di ferro tra i governatori locali, gli amministratori, i sindaci, abbiamo sentito le parole di Ted Wheeler, e l'amministrazione centrale di Donald Trump? L'elettorato di destra non è sempre stato molto vicino ai governatori locali, agli sceriffi, all'amministrazione locale. Non è un po' bizzarra questa frazione all'interno della destra americana? C'è un problema anche di sostenibilità, perché tanti governatori e tanti sindaci sono in prima linea per la lotta contro il Covid, e diversi stati e diverse città sono a rischio default. Ci sono al congresso da 3 mesi e fermo un progetto di aiuti alle città, ai governatori, che è fermo perché Donald Trump, siccome la maggioranza dei governatori locali e dei sindaci sono democratici, non vuole dare soldi prima delle elezioni. E io volevo solo aggiungere che non c'è davvero un pericolo di guerra civile, non spaventatevi, sì, questo fa parte della retorica, e soprattutto perché la democrazia americana, i militari americani non stanno sicuramente con Trump, ma stanno con lo Stato prima di tutto. Quindi se dovesse davvero vincere Biden, ci sarà comunque problema di divisione sociale che continuerà, certo, a esserci. È stato, certo, difficile per Biden diventare il presidente di tutti gli americani, perché la società americana non è mai stata così divisa come ora, mi sembra. Sì. Però la democrazia americana, credo che non ci sia un rischio di tenuta, c'è un rischio sociale. E la storia dei governatori poi è legata anche a questa strategia di Trump di di fomentare l'odio, di fomentare questa violenza di questi giorni, che è anche un modo per togliere l'attenzione sul dato vero, che è il dato del Covid. Tra due settimane si arriverà a 200.000 morti, la crisi economica è la più pesante dal dopoguerra e tanti hanno perso il lavoro, quindi la vera molla, ormai Trump parla del Covid passato, per lui non è un'emergenza, certo. Cerca di cancellare quello che sta succedendo, ma i morti ci sono ancora, tutti i giorni siamo intorno ai 1.000 morti al giorno, quindi è tutt'altro che superato l'emergenza Covid, ma lui gli fa gioco anche sfruttare queste divisioni, queste violenze di piazza, questo rischio della casa che ti verrà occupata dal ragazzo afroamericano, sì. Che non c'è in realtà, però è tutta una strategia ben precisa di cercare di aumentare i consensi, ma secondo me alla fine dei giochi tutto si deciderà sulla crisi del Covid, quindi sì, sì. Se lui uscirà fuori con un vaccino più o meno vero intorno al 20 ottobre magari vincerà le elezioni. Ma quello, Riccardo, la geopolitica del vaccino, abbiamo dedicato un'intera puntata proprio in chiusura della stagione dell'anno scorso proprio per rimarcare quanto sia importante e come possa diventare uno strumento anche elettorale. Notizie di poche ore fa che in Russia è praticamente pronto il vaccino. Intanto grazie mille Riccardo Barlan per essere stato con noi. Buon rientro a New York. Grazie Riccardo. Allora, un po' di messaggi al 349-238-6669. Credo che il clima d'odio lo fate voi con le vostre fake news. La polizia ha sparato dopo che il ragazzo non si è fermato e stava, e qui c'è la recapitolazione degli eventi. Un altro ascoltatore: intanto io attendo di vedere una manifestazione di protesta e solidarietà per i tanti agenti delle forze dell'ordine, bianchi, neri, gialli, latinos, uomini e donne uccisi in servizio. Quelle vite don't matter, scrive l'ascoltatore. Io ricordo che credo che siamo stati tra gli unici in Italia, ma non voglio autocelebrare questa trasmissione, a avere sostanzialmente in diretta un esponente di Blue Lives Matter, che è proprio quell'associazione di poliziotti americani e non solo, che difendono proprio i morti in servizio. E poi c'è una chiosa proprio su Barlam, che mi spiace, abbiamo mai salutato. Come fa quella persona a parlare di nazismo? Negli Stati Uniti gli indagati vanno tenuti ammanettati a letto per legge, ma il disgraziato è paralizzato, 7 proiettili, non camminerà più. Forse ci si domanda, magari si possono evitare le manette, ma questo non toglie la cronaca di quello che sta accadendo. In questa puntata, In nessun luogo lontano, stiamo cercando di raccontarvi quanto sia divisa e polarizzata la società americana. Proviamo a fare brevemente una radiografia proprio di questa società con Stefano Luconi, insegna storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova. Professor Luconi, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie di avermi invitato. Allora, attingiamo anche alle sue competenze e agli suoi studi storici per capire se è vero che l'America e gli Stati Uniti sono ripiombati indietro di parecchi decenni. Siamo sull'orlo di una guerra civile? Ma dunque, a me sembra un po' un'esagerazione sensazionalistica parlare di guerra civile. Ora è un po' sconveniente fare la contabilità dei morti, però vorrei ricordare che nel 1968, subito dopo l'omicidio di Martin Luther King Jr., 4 aprile, scoppiarono negli Stati Uniti una serie di tumulti e di vere e proprie sommosse che provocarono 43 morti. Ecco, il livello di mortalità di queste manifestazioni a cui assistiamo adesso è un livello molto più basso, e nel 68 non è scoppiata nessuna guerra civile nonostante il numero più alto di morti. Quello che c'è da dire è che gli Stati Uniti sono caratterizzati da una fortissima sperequazione nella distribuzione del reddito. Questa sperequazione crea delle tensioni e ci sono dei momenti di crisi, dei momenti di emergenza nazionale come quelli del contesto della diffusione della pandemia del Covid-19 che fanno diventare molto più acute, molto più virulente queste tensioni, che sono una costante nella storia del paese, non soltanto nell'ultimo cinquantennio. Poi, come è stato detto da chi è intervenuto prima di me, il presidente Trump ci sta mettendo del suo, perché anziché pacificare gli animi, anziché ridurre le tensioni, gioca proprio sulla polarizzazione per motivi elettoralistici. Ecco, e c'è, secondo molti analisti, la serissima possibilità che, così capitalizzando questa polarizzazione, Donald Trump vada a vincere un'altra volta. Non è un alibi per le piazze e anche per i democratici addossare a Trump la responsabilità di ciò che sta accadendo? Cioè, litaniare è colpa di Trump, lei presidente semina odio e getta olio sul fuoco. Quanto è politicamente vincente? Come se Biden e i democratici fossero sempre alla rincorsa. Alla fine l'agenda l'ha detta sempre comunque Donald Trump. Beh, c'è un problema di fondo nel Partito Democratico, che è la mancanza di compattezza tra l'ala progressista e l'ala moderata di cui è esponente Biden. L'antitrumpismo è quel tessuto che riesce a coagulare e a mettere insieme tutte forze così diverse che altrimenti rischierebbero una nuova debacle come quella che si è verificata nel 2016. Invece Trump ha creato un partito repubblicano a sua immagine, basti vedere la recente convention, dove più che la convention del partito repubblicano è stata la convention della famiglia Trump. Quindi sì, c'è questo problema, ma questo problema è dovuto alla necessità dei democratici di trovare un terreno comune nel fare la guerra politica al presidente. L'analisi, la radiografia, come dicevamo all'inizio, che ci arriva dal professor Stefano Luconi, insegna storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova, per rispondere fondamentalmente alla domanda principe, sono gli Stati Uniti sull'orlo di una guerra civile? Il professor Luconi ha fugato i dubbi, slogan giornalistico piuttosto sensazionalistico, però invece andando più nel profondo, visto che le ho messo addosso il camice da medico, professor Luconi, se esiste una cura da parte della politica per questa società che magari non è sull'orlo della guerra civile, ma sicuramente è polarizzata come non accadeva, almeno da osservatore attento e molto esterno, da parecchi anni. E cosa la politica, cosa la società americana può mettere in campo per evitare questa polarizzazione? Certamente non fa bene, perché nella migliore delle ipotesi lascia sul campo violenze e, se non morti, appunto. Beh, un intervento è sicuramente quello di programmi che cerchino di ridimensionare la sperequazione nella distribuzione della ricchezza. Da questo punto di vista, Bernie Sanders, quando aveva proposto un'iscrizione gratuita ai college e alle università, avrebbe dato un contributo significativo in questo senso. Cioè, il problema di fondo è questo forte divario nel reddito, nella ricchezza, divario di cui si nutre la contrapposizione interna, la polarizzazione della società. Non è un caso che le forme più acute di queste tensioni sociali si verificano proprio nei momenti di difficoltà economica. E di maggiore crisi, e certamente il Covid-19 sta impattando in maniera drammatica non soltanto negli Stati Uniti, ma la sappiamo in tutto il globo. Professor Luconi, la devo salutare, la ringrazio, le tolgo i panni, il camice del tecnico di radiografia, la ringrazio tantissimo. Alla prossima, lo ricordo, il professor Stefano Luconi insegna storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova, mentre chiedo a Roberta Frisani di lanciare i nostri titoli di coda. E quindi un ringraziamento va a tutti voi che siete stati all'ascolto e avete alimentato il dibattito qui a Nessun Luogo Lontano, a tutta la squadra. L'appuntamento è per domani, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.